comunque già ho capito, ecco lo stato dove sono gli alberi al centro, già ho capito, c'è un spazio di traffico. Bravo, bravo, bravo, hai azzeccato la prima, sì, proprio così. Boh, non lo so chi sia, sinceramente non lo so, però probabilmente qualche radioamatore, qualche antenna radioamatoriale. È sensato. Ma la prima volta avevo avuto il dubbio di cosa, di quello che ha sacco cuore, ma poi ho pensato, no, è tutta una strategia. No, io non sono capito che non è lui. Non è lui, Giuseppe Seice. Parlavo di Giuseppe, sì. No, non è lui. Giuseppe comunque adesso si piazza l'altra antenna, si piace la ring. Adesso non so se lascia quella lì oppure se stacca solo il piede e lo attacca la ring. Adesso non lo so come fa, però si mette la ring. Buona come antenna la ring, tanto ricordate per quella. Sì, ma ce l'ha portata. Portate, l'ho sentita. Comunque, quella lì è una zona buona dove c'è Giuseppe, una buona zona, io perché voi la sacro cuore, col portatile parlavo con Malghero, fatti un conto. Ah, già buona. Fate controllo già, per favore. 1, 2, 3, 4, 5. No, spermite portare a chi non mi vede, così no. Prova. 1, 2, 3, 4, 5. No, 9:10, appena passato, un po' più di 9:10. Guardate, è buono già. Sì, tutto buono. Caffa di roccia. Anda, appena veda. Ma mangiare, roba buona abbiamo già. Non so cosa sta preparando. Sento profumo di roba arrosto, ma non lo so cosa sia. Forse sta facendo cosce di pollo o qualche cosa del genere. Ho scoperto una cosa, ci ho messo il girto l'altro giorno sulle cosce di pollo, le ha fatte la bontà incredibile. Non lo sapete? Mi ho messo il mirto sopra, le foglie del mirto. Sì, no, fa squisito il pollo, non lo sapevi che le foglie del mirto è omicidiale, lo mettono nel porcetto. Sì, nel porcetto sì, cosa nel pollo non l'avevo mai messo. Nel porcetto, nell'agnello lo metto. L'agnello picchia del porcetto. Il porcetto, se tu mangi la gente del nuovese, lo fa solo col sale. Cappa. E gli dà quel tocco di sapore buono, ma non leggi di cose che si deve intendere solo sapore di saletta, no, non di sodore, sì. Sono un bel particolare, già cucinano bene, la verità si dica, che fa 2% che è croccante, non è la verità sì. Però mi sa che come sapore non vanno molto d'accordo già. Sale solo, solo il sapore della Coca-Cola non lo voglio sentire, detto che non devono sentire i sapori degli odori che metti, devono sentire il sapore della carne. Io una volta l'ho mangiato sottoterra, il porcetto fatto sottoterra, è di una bontà unica, però me l'hanno servito in questi vasi di sughero, ma buona vita. È vero, poi ti si spacca la mangiando, è una cosa, guarda, è troppo buono. No, non ci vado matto, lo sai, io non vado matto né per il porcetto né per l'agnello. Io lo stesso, ma io ho tutta la carne in generale già, non è che ne vada matto, giusto l'assaggio quando sono in compagnia, ma non è che ne vada matto di mangiare carne, come ne vedo io colleghi che cucinano lì in cantiere per dire il venerdì, no? Ah, mangiate 6, 7 fettine, 8 fettine, mamma mia, io ne mangio una, proprio un pezzo di pane, non se ne... E poi posso mangiare tutto quello che voglio. No, io già la mangio, ma di piccare perché sono carnivoro più che pescivoro. Sono carnivoro. Mi piace la carne, però dico, l'agnello se lo mangio mi sta sullo stomaco, il porcetto mi fa un effetto diverso, mi va già così. Non ne posso mangiare né uno né l'altro, quindi sono carni che io posso mangiare solo. Allora, i piedini posso mangiare, poi la coda e la testa. Boh, da lì, se io tocco un petto dove c'è un filo di grasso, un po' fottito. Vuol dire che no. organismo che ci ha. Poi, ma comunque la multipla di carne la mangi, sì. Gli altri tipi di carne, io per dire la pancetta è grassa. Se io mangio la pancetta arrosta, è la cosa che mi piace di più, e non mi fa male. Però è strano, vedi? Ma vedi che è strana la cosa? Eppure, vedi, quella lì non mi fa male. Ne posso mangiare, tu mi piace, sì, magari sento la pesantezza, si ne mangio di roba, sì, ma non mi fa di male. Vabbè che cucinava arrosto e tutta la tavoletta, asciugli i grassi, capito? E magari in pentola è diverso, i grassi rimangono e via dicendo, capito? Beh, certamente che sì, quello è diverso, sì, tu sì. Ma io quello che posso mangiare lo mangio da voi, non ritrovassi, io devo fare tutti i capi, capelli anche un pezzo di carne, non mi fa male, è inutile, per farmi male mi mangio un gabbito della testina, questa testina sta molto tutto che non ci siano pezzi di grasso. La coda, tirato più che giù, sì, però sai, muoio di fame quando cerco la roba. Ma l'occhio ti piace già? Cosa? L'occhio della pecora, della testa. Sì, lo mangio anch'io. Buono, eh? Certo si può. C'era un uomo, lo sai, che veniva dalla Sicilia. Quando macellavamo le bestie non ci chiedeva l'occhio. L'occhio del coso, il giorno ce l'ha portata. Prendeva l'occhio e l'altra cosa che si fa nera. Mamma mia. Però vederla fa un po' di pressione, eh. Beh, cucinava tutto e dice che sono piatti prelibati, io schifavo all'inizio anche i piccoli. Un giorno ce l'ha portata e gli ha portato proprio l'unibulo fatto a dadini con le olive e cose. Se si danno mangiato tutti pure di fremere, non proprio un panino. Se danno mangiato poi un mio collega bastardo che lascia tutto, ha detto, ma dice che a Sassari mangiano, questa mia collega di Sassari, che a Sassari mangiano il coso del burro, dice no, i testicoli mangiano, il resto no. Dice, ma me hanno detto che lo mangiano anche quello, tutti ridendo, gli ha rifatto la giostra. Beh, è normale. Anche tu. Via, avanti con Buglio, buonasera. Vedi che devo fare il corso su quella palletta, che giro giù me. Sono qua a casa, se vuoi salire adesso. Da casa adesso? Sì, sai, io sono qua, così tiro quella palletta. Ok, da, dammi tempo di rimettere il pantalone. E sto per... Ok, Gianni, dai, ce l'ha ascoltato magari a dopo, dai, sempre. Ehi, dai, fanno mangiare così, sentiamo dopo. Ehi, a dopo. Oh, buon. Sì. Salendo? Sì, non lo faccio qua io, non c'è problema. Cappa, chiudo, lo passo. Ehi,